29 giugno 84 è il draft che tutti si ricorderanno, dove Michael Jordan fu scelto clamorosamente alla posizione numero 3. Permettimi di dire, Willy, che ai tempi fu una chiamata, secondo me, normalissima, e se mi permetti, col senno di poi, sono un po' più basito quando al draft del 78 alla sesta fu scelto un certo Larry Bird. Buona giornata a tutti. Buongiorno a te Paolo, grazie per questa palla 2, nuovamente buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori del Move to Groove. Draft 1984, siamo in un periodo di svolta tra rivoluzione e normalizzazione. Questo argine lo porta Michael Jordan, che sarà il più grande giocatore di tutti i tempi, da Michael Jordan in avanti. Per quanto riguarda la pallacanestro, sì, chiaro, anch'io resto basito quando sento che Larry Bird nel 78 viene scelto col numero 6 al draft dell'anno, appunto, che vede anch'esso tantissimi talenti. Ma detto ciò, per quanto riguarda i draft, avremo modo di parlarne e di darne approfondimento, perché è un momento altrettanto di svolta, seppur con le relative proporzioni. Iniziano, anzi già sono iniziati nella nottata scorsa, la 41esima edizione Torneo dei Giardini Margherita. Perché è importante? Beh, per un atleta, o in questo caso un ex atleta, è una sponda che portava al termine dell'impegno tra una stagione e l'altra e dava il via all'estate, quindi solitamente il weekend lasciato libero, un weekend finalmente libero, e durante la settimana il playground che diventava, oltre che motivo di incontro e allo stesso tempo agonisticamente scontro, con a volte compagni di squadra impegnati in altre, chiamiamole, franchigie per il torneo dei Giardini Margherita, con tanto di ovviamente playground all'aperto, con motivo anche di divagazione per l'incontro, il convivio, la bellezza di potersi confrontare con giocatori di altre categorie, e allo stesso modo il divertimento che finalmente era chiaramente sinonimo d'estate. Estate all'aperto, una partita con giocatori di categoria da tutte le realtà, a volte anche da oltreoceano, per quanto riguarda gli anni in cui ho partecipato al torneo dei Giardini Margherita. Per me era veramente un aspetto molto importante, perché, come ben sapete, certo, l'allenamento, la stagione regolare, il termine della stagione, il bilancio finale, l'attesa per quanto riguarda l'inizio del campionato successivo, e questo incontro, questo playground che, perché no, a volte era anche una vetrina. Gli addetti ai lavori, gli appassionati, i curiosi si radunano intorno a questo rettangolo di gioco che vede giovani e non giovani, o anche giovanissimi, motivo di bella pallacanestro. Sto parlando dei tempi, ma indubbiamente anche adesso, avremo modo poi di darne approfondimento. E soprattutto in questo caso sentiremo, nell'evoluzione di questa 41esima edizione, anche di un'attenzione per il sociale. E non solo, dalla voce di Simone Motola, tra gli organizzatori di questo torneo già da tempi immemori, dalla sua fondazione, la 41esima edizione, appassionato, giornalista, competente, conoscitore della pallacanestro, avremo modo di sentire le linee generali di questa novità. Sì, novità, perché ogni volta una piacevole aggiunta sarà all'interno del playground. Iniziamo allora da quante squadre saranno impegnate in questa 41esima edizione. 16 squadre del torneo maschile, 9 del torneo femminile, che è quello che parte stasera alle ore 20. Il format, per meglio dire la formula del torneo, comprenderà una sorta di divisione in gironi e una conclusione in playoff, come al solito? Assolutamente sì, essendo 16 le squadre maschili è abbastanza banale, 4 gironi da 4 squadre, le prime due accedono ai quarti di finale che partono poi l'ultima settimana, quella del dentro o fuori, 17, 18, 19, 20 luglio con gare ad eliminazione diretta, 17, 18 i quarti di finale, 19 le semifinali, 20 la finale. La cadenza riguarda invece il torneo femminile, sì, chiaramente essendo di 9 squadre è un pochino più complicato, nel senso che abbiamo 3 gironi da 3 squadre, le 3 prime accedono in semifinale, la quarta semifinalista sarà la vincente di uno spareggio tra le due migliori seconde, tra le tre seconde dei tre gironi. Chiaramente sarebbe stato meglio avere un numero diverso di squadre, tipo 8 o 10, però quelle sono, e dobbiamo comunque creare una formula che lasci almeno spazio anche alle seconde classificate per poter accedere alla finale, altrimenti potrebbe rischiare di diventare un torneo dopo le prime partite già noioso. Invece così lasciamo un po' di pathos anche nel torneo femminile. Cadenza delle partite saranno settimanali, periodicamente distribuite in che modo? Allora, noi tendenzialmente abbiamo sempre giocato dal lunedì al giovedì per lasciare il venerdì libero. Ma in realtà quando tu hai così tante squadre, e chiaramente non è che puoi fare delle partite a mezzanotte, generalmente come è successo in questa edizione che sta per partire, devi utilizzare anche il venerdì, quindi noi utilizzeremo 3 venerdì, il 30 che è il giorno della finale femminile, il 7 e il 14 che invece saranno giornate di gioco per quanto riguarda il torneo maschile, mentre la prima settimana, cioè questa, e l'ultima, è quella delle finali, finiamo di giocare. Gioca anche al venerdì, una delle realtà e degli aspetti, magari visto l'estensione di partecipazione particolare, venerdì, sabato e domenica le squadre non erano impegnate, in odor di weekend ovviamente è giusto anche magari pensare, che so, andare al mare, punto di domanda, ecco questo. Invece, vista la grandezza e l'impegno, diventa anche comprendente la giornata pre-weekend. Beh, il torneo dei giardini, profumo di tigli, gelsomino nella splendida cornice, un motivo in più, motivo di aggregazione. A volte io ho sentito anche dei DJ set all'interno del momento tra primo e secondo tempo, insomma, ma adesso è diviso in quarti, tra l'altro come nell'NBA. È stato un torneo che ha voluto dialogare oltreoceano con alcune regole. Mi ricordo che ancora quando in Italia si tirava da 3 punti a 6,25 metri, già al torneo dei Giardini Margherita si tirava come in NBA da 1 metro ulteriormente spostato, allontanandosi da canestro. Dite voi, beh, 1 metro, no, vi posso assicurare che è tutto un altro mondo. Tirare da 7,25 metri sembra di tirare da una distanza siderale. No, è un cambiamento importante per chi è abituato e avvezzo, diciamo, ad allenarsi da tale distanza. Dici, mamma mia, quant'è lontano! È chiaro che tutto ciò porta poi a una spettacolarizzazione e non solo, anche a un entusiasmo e allo stesso modo una volontà di migliorarsi costantemente. Il dialogo con Simone procede anche per conoscere altre realtà di questa 41esima edizione. Cominciamo allora con nomi da citare in particolare per quanto riguarda questa edizione. Dal punto di vista del torneo maschile, come al solito, perché ormai è una prassi già degli ultimi 10 anni, si fa molta fatica a vedere giocatori di Serie A intesa proprio come massima serie, perché hanno molta paura di farsi male, a differenza di 20-25 anni fa, quando evidentemente questa paura non c'era. Io credo che sia tutto nato anche dai procuratori, insomma, che 20-25 anni fa erano agnisti, adesso invece chiaramente comandano il mercato e diciamo, consigliano sempre ai loro assistiti di non venire a tornare dai giardini, come se ci fossero stati morti, feriti. Quindi tendenzialmente il nucleo fondamentale del torneo è formato dai giocatori di terza serie, cioè di B, che comunque sono praticamente tutti professionisti, però appunto, lo dice il nome, sono professionisti di serie B, quindi i giardini possono giocare. Per quanto riguarda invece la 2, comunque ci saranno una quindicina di giocatori di via 2, chiaramente i più conosciuti al pubblico bolognese sono quelli legati al mondo Fortitudo, Nazareno Italiano, Davide Raucci, può anche essere che faccia una partita Fantinelli, quindi insomma diciamo chi è legato al mondo della Fortitudo. Poi ci saranno altri giocatori ma magari meno conosciuti, sì, nella nostra città. Per quanto riguarda invece il torneo femminile, chiaramente i roster vengono definiti proprio all'ultimo secondo, perché già è un modo di muoversi diverso, non c'è ancora quell'abitudine c'è nel torneo maschile magari di muoversi a Pasqua per fare le squadre. Sono convinto che qualche giocatrice di A1 invece nel torneo femminile potrebbe anche saltarne fuori, magari un paio, due o tre. Mi aspetto un torneo femminile molto equilibrato per le prime 4 squadre, credo che ci siano 4 squadre un pochino sopra le altre e lì il livello sarà molto alto rispetto, diciamo, a quello che potrebbe essere un paragone col torneo maschile. She looked just like a royal queen, and she cruised by with some wealthy guy in a Cadillac limousine. Last time I saw Janine. Last time I saw Janine. Recalled when we were 17. I was her beau, 'twas not too long ago, but too short off that long, long green to satisfy Janine. Now she's gone from me, moved away from the old neighborhood, and I'm certain she's gone for good. Last time I saw Janine, the dog, love sign stood in between. To rising costs, and since then I have never seen, I haven't seen Janine. We'll be right back. abbiamo fatto approfondimento su tutti i playground insieme a Paolo Zanardi, con il Meloncello, con il Sadena sotto il ponte di Via Libia e con l'immancabile Gardens dei Giardini Margherita. Abbiamo portato anche un'attenzione estesa non solo per eventuali tornei da playground, ma per la stagione vissuta anche in questi frettolosamente definiti campeggi. Altrettanto importanti, secondo me, dell'annata, ne fanno parte con una continuità diversamente normale. Ne abbiamo parlato con tutte le salse possibili in confronto di quella che è una stagione regolare e una stagione vissuta al campetto, che sono assolutamente complementari. Buongiorno Lino, aspettando il Mood Groove, eccolo qua il Mood Groove, nella prima parte dedicato ai Gardens, nella 41esima edizione. Alcuni personaggi ai quali sono dedicati i premi, come miglior giocatore dell'incontro singolo, miglior giocatore del torneo, miglior realizzatore per ogni incontro e ovviamente per il torneo. Ne cito due fondamentali: Riccardo Riccardone di Cesare, coach scomparso di recente, e un altro fondamentale per i Gardens e non solo per la pallacanestro, uno scout, Gabriele Filippi, detto Gabe, meglio conosciuto come la Tenebra, uno dei personaggi che non solo essendo legato a una pallacanestro da protagonista con un NBA veramente molto importante, è riuscito a portare atleti di grosso calibro in Italia anche per il carisma, la disponibilità, l'ascolto. La figura di Gabe resterà sempre e comunque per le appassionate e gli appassionati di pallacanestro una figura da tutti i tempi. Ai tempi alcune squadre, ricordo da Massimo in via Rivareno, un negozio d'abbigliamento che prese la franchigia per il torneo dei Giardini Margherita. Giocavo con Cempini, un giocatore secondo me fortissimo, con Giovanni Setti, che abbiamo avuto anche ospite al Mood Groove, lui nella Virtus Bologna, entrambi per la Virtus Bologna, lo storico Mulino Bruciato, sono le due franchigie nelle quali ho militato ai tempi. Si parla della preistoria cestistica, il confronto anche con atleti del calibro di Mike Brown, un centro enorme che ha partecipato a edizioni passate dei Gardens, oppure il realizzatore, mio idolo giocatore fortissimo, Tony Zino, o il famoso Fuck You Willy, dopo che ho dichiarato più volte il mio amore per questo giocatore, mi ha giustamente mandato a quel paese, e ci sta, questo episodio l'ho già raccontato. E ricordo anche diverse partecipazioni di Cedric Orges. Gli appuntamenti, chiamiamoli di contorno, sono in questa parte di conversazione protagonisti anche le figure che ho appena citato per le singole onorificenze in singole partite o nel torneo stesso. Appuntamenti di contorno, anche se contorno non è, ma allo stesso modo da protagonisti, cioè ci sarà musica, la possibilità di passare del tempo anche, diciamo così, intorno alla cornice dei Giardini, immagino. Beh sì, musica relativa, cioè nel senso che fondamentalmente è la voce degli speaker, quelli che fanno un po' da musica alle serate. Chiaramente noi abbiamo la parte stand con food and beverage, come dicono quelli bravi, che sicuramente è un fattore importante, perché il torneo ha costi molto elevati, molto più di quello che la gente crede. E per quanto riguarda invece le serate particolari, ci tengo molto al martedì 27, perché il Baskin io lo conosco molto poco, però so che è in grande esplosione questo basket inclusivo tra normodotati e disabili in tutta Italia. Ci tengo particolarmente alla serata del 27 di giugno, che è un martedì, perché la serata dedicata nella prima parte al Baskin, basket inclusivo, sta esplodendo nel nostro paese, crescono squadre un po' in tutto il territorio. Io è un basket che conosco poco, però mi piace molto l'idea di mischiare, come poi aveva fatto il grande Marco Calamai tanti anni fa, normodotati e persone con disabilità. Quindi invito tutti a seguire questo basket diverso, questo basket per martedì 27 alle 20:15. L'altra serata, che non è proprio del torneo, perché è proprio una serata a parte, è il martedì non successivo, quello ancora dopo, il giorno 11 luglio, con la serata di beneficenza organizzata da Cupollus e dal suo Deus Ex Machina Nicola Turrini. Quindi quelle sono le serate un po' particolari, tenendo conto che noi faremo una raccolta fondi per Fulvia Emiliani, che è una ex giocatrice di Faenza che ha avuto con l'alluvione seri problemi, una ragazza che a Bologna ha tanti amici perché ha giocato per tanti anni sia con Cibolani e la Libertas che a Castel Guelfo, e quindi nel nostro piccolo cercheremo di fare anche quello. Collaborazioni per il torneo dei Giardini Margherita? Come sempre, diciamo che abbiamo il supporto della Federazione Italiana Pallacanestro, perché gli arbitri vengono da loro. Poi io ho fatto tanti anni fa questo compromesso storico, come lo dico io in maniera scherzosa, cioè di unire enti di promozione sportiva un po' variegati dal punto di vista delle sigle. Quindi avremo il centro sportivo, Unione Italiana WISP, per intenderci, che è sport per tutti, che conoscete, l'ASI, e quindi riusciamo un po' a unire tutti, perché comunque deve essere, secondo me, una festa della pallacanestro bolognese. Non deve essere, non deve avere fondamentalmente né un colore particolare né una griff particolare, se non quella, diciamo, di chi organizza, cioè nostra, cioè del basket Giardini Margherita. Quindi cerchiamo sempre di fare il meglio e di poter coinvolgere più bolognesi possibile, e quindi anche più pezzi di Bologna possibile. Certo. Hanno visto quelli buoni davvero, 2 anni in NBA per Indiana, per Tony Zinno, un realizzatore, un giocatore 2-7, atleta, buonissimo rimbalzista, quei giocatori che nell'NBA magari hanno fatto qualche stagione e poi con l'Italia hanno trovato davvero, come si dice, l'America. Tony Zinno il massimo l'ha dato a Brindisi insieme a Otis Howard, altro giocatore fortissimo, entrambi giocatori che per un motivo di basket veramente eccelso, sublimazione cestistica, non sono riusciti ad avere più spazio nella NBA. Otis Howard, gli stessi allenatori della NBA, dicevano: peccato che in difesa sia un disastro, perché per quanto riguarda la parte offensiva è un'ira di Dio. Tony Zinno è quel giocatore invece che nell'NBA dell'epoca non sai bene perché, certo, da tre è unicamente fronte a canestro, tecnicamente non esattamente perfetto, e i tre dovevano avere una tecnica specchiata, e da quattro un po' leggerino. Ecco, tutte queste caratteristiche diventavano importanti, ma in Italia qualcosa di devastante. Tony Zinno, un realizzatore, 30 punti nelle mani costantemente, più volte capocannoniere del campionato di A2 e ovviamente un'importanza fondamentale anche nella massima serie, tiratore micidiale, atleta, rimbalzista, una presenza vicino a canestro come nell'uno contro uno con queste gambe lunghissime, giocatori che sinceramente io non riesco più a vedere, sarò un passatista, criticatemi finché volete, ma portavano avanti, ecco, questa coppia. Prendevi una coppia così, male, ti salvavi, potevamo giocare anch'io, Paolo Onofri, Alfredo Pasquali, ti salvavi, cioè tranquillamente. Call me, tell me and I'll be around. Il Furla per la fortitudo, io vidi il primo allenamento della storia di Mike Brown con la F, prima schiacciata, canestro in frantumi. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Sì, Mike Brown, un omone, 2'7, 2'8, enorme, giocatore anche, ecco, anche lui. Giocatore fortissimo, ha avuto anche più carriera nella NBA come centro di seconda o terza linea. Pensate il livello, eh? Certo che dover marcare Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson, e potrei andare avanti ad oltranza. Quindi giocatori che ti trovavi ai Giardini Margherita, veramente di un livello eccellente oltre. Ora le cose sono un po' cambiate e vorrei portare una riflessione. Avete notato che più la parte di tecnica andava in calare, rispettosamente parlando, allo stesso modo il livello di impegno dei Giardini, il livello di diffusione, di spettacolarizzazione invece fosse in aumento, è in aumento e va bene così, perché ci deve essere sempre e comunque più spazio per tutte e per tutti. Anzi, torneo che meritoriamente presente ai Gardens, quello femminile, la conoscenza del Baskin, e per cui questo è un aspetto di estensione. E rispettosamente parlando, rispetto una volta dove trovavi magari queste figure come alieni presenti nel torneo, in un torneo che però era più pane e salame. E visto che ho dato il via a questo momento di storicità, parliamo un po' anche dell'albo d'oro recente del torneo dei Gardens con Simone Mottola, che ringrazio per la disponibilità intanto. Squadra campione uscente? A livello maschile si ripropone Ciaccio Casa Boilfish, che sarà una delle favorite anche quest'anno sicuramente. Per quanto riguarda invece il torneo femminile, la squadra campione delle ultime stagioni, cioè le Belle Comode, non ci saranno, quindi vi aspetto appunto grande equilibrio, quattro squadre sulla carta, sono un pochino sulla carta, sempre, sono un pochino meglio delle altre. Ricordo ovviamente che abbiamo due sponsor diversi, il torneo maschile è Marchiato e Grippato, è sponsorizzato Lavoro Più, invece il torneo femminile è Milbanca, perché chiaramente vogliamo che sia un torneo che abbia una sua anima, insomma, certo, che non sia un qualcosa all'interno del torneo maschile, ma che abbia una sua importanza, perché comunque se siamo la città del basket lo dobbiamo essere per tutti i generi, ecco, non solo per il genere maschile. Sì, e in conclusione, miglior giocatore, miglior realizzatore, vi saranno altre specificità? Ma sì, i soliti premi che diamo, dico soliti, ma in realtà hanno un sapore importante, perché molti sono dedicati a persone che poi conosci anche tu molto bene, da Riccardone, di Cesare, che è il premio fondamentalmente più importante in assoluto, che è il premio dell'MVP, Gabriele Filippi, a Dario Bellandi, cioè persone che sono state importanti, soprattutto ovviamente in rapporto al playground, perché chiaramente sono tante persone nel mondo della pallacanestro che hanno uguale valore o importanza, che non ci sono, però chiaramente noi abbiamo cercato di dedicare a chi è stato veramente vicino per diversi motivi, o come giocatore o come allenatore, quindi siamo molto contenti che ogni anno ricordiamo anche persone che appunto sono scomparse, perché io rimango sempre dell'idea, spero condivisa da molti tuoi radioascoltatori, che finché una persona si ricorda non è mai morta. Certo. Io con questo ti ringrazio, appuntamento ai Giardini Margherita, non mi resta che augurare un buon basket e un buon torneo, e grazie della disponibilità, Simone, buona giornata. Grazie, buon lavoro. Come on and swing, come on and swing, don't mean a thing if it ain't got that swing. Let's jump, jump until you feel it in the romp. Jump until you're leaping up high. Well, you better reach and get it, for you'll never take it with you, not when you die. Oh. Shake that thing. No, no, Lino, non sono d'accordo. Tu sei un all-star, anche perché, scrive, i Gardens hanno comunque una macchia, un'onta che non potrà mai essere cancellata. Nell'84 ha partecipato uno scarsone con pochi, il sottoscritto. No, no, Lino, no, anzi. Il 1986, al torneo dei Giardini Margherita partecipa un bambino, tale Adam Filippi, poi vi racconterò anche se l'ho già riportato, un giocatore fortissimo, ora impegnato nella NBA, ha giocato Macho Forni, il povero Macho Forni, anche lui vorrei ricordare tra i personaggi ora in un'altra dimensione. Massimo Gianotti, che saluto, aggiungo anche il Righi, realizzatore, lui un realizzatore incredibile, un attaccante, solo che non rientrava mai in difesa, giocava in contropiede, se nella pallacanestro ci fosse stato il fuorigioco, perdonami Righeira, ma tutti i canestri erano annullati. Una delle prime edizioni con la franchigia del Mulino Bruciato, la prima parte con tre partite si andava a percorso per arrivare a conclusione del girone negli eventuali playoff. Ovviamente nel Dream Team, tra virgolette, che vi ho appena citato, c'ero anch'io. Io ricordo che le abbiamo perse tutte di 30, però vi posso assicurare quanto ci siamo divertiti. Io non ancora ventenne, tutto contento che schiacciavo in riscaldamento, ma dietro di me sentivo bam, delle altre schiacciate clamorose, e dentro di me dicevo: ma chi è che schiaccia in questo modo, così? Bah. Finché non decido di voltarmi, trovo questo bimbetto, era Adam, e mi fa: ciao, sei Willy? Io sono il fratello di Jason. Dico: ah, siamo a posto. Piantava degli schiaccioni, veramente andava su non so quanto, poi ovviamente sappiamo bene il suo percorso sia in fortitudo e soprattutto a 100, è stato impegnato nei Sacramento Kings come scout. Un altro Macho Forni, maestro di vita ai Gardens. Righeira è il maestro del Cherry Pick. Adamberg forse tra i primi allenatori di tiro al mondo, oggi come oggi. Thank you. Buon torneo dei Gardens, appena iniziato, estesissimo, dura fino oltre la metà di luglio e quindi buona pallacanestro a tutte e a tutti con i suoi percorsi. Percorso che per questa presentazione termina qui, andiamo in pubblicità ringraziando ancora una volta Simone Mottola e torneremo. Due parole su Denver, la storicità dei Nuggets. Non si chiamavano Nuggets all'inizio, erano i Denver Rockets. A tra poco, buon ascolto. Mom is calling, la tua mamma ti sta chiamando, ti stai attardando troppo a giocare al campetto. Ha una caratteristica molto particolare che è la città più importante del Colorado, è la città di stato federale che è anche capitale dello stato stesso. Sapete che negli Stati Uniti d'America non sempre la città più riconosciuta è automaticamente capitale. La capitale ha parte unicamente amministrativa e burocratica. La città più importante ha, diciamo, un riconoscimento che può essere turistico, per darne un esempio, o altre peculiarità. Beh, la storicità di Denver è legata anche al nickname il Colorado. Grandi filoni auriferi e l'oro è stato, con la famosa corsa e la febbre dell'oro, una delle caratteristiche che poi ha portato il nickname della franchigia, i Nuggets, cioè le pepite. Beh, ok, il primo nickname non fu Nugget ma fu Rocket, ora per gli Houston, in quanto sede importante di sperimentazione per la NASA. Sapete che anche il nickname ha più delle volte delle attinenze con le caratteristiche della città. Per quanto riguarda Denver, sorge su un altopiano appena est delle montagne rocciose che offrono una visione di grande bellezza e un panorama che dalla città guarda verso ovest. È soprannominata The Mile High City perché la sua altitudine ufficiale sul livello del mare, misurata sul 15° gradino del Colorado State Capitol, ammonta a 1609 metri, cioè un miglio terrestre, quindi una particolarità insomma abbastanza singolare. Concludo velocemente per quanto riguarda la franchigia Nuggets, magari perché ha importanti giocatori che hanno portato dalla nascita nella ABA fino ad arrivare ai giorni nostri. Ci fermeremo nel 1985-86 poco più, in quanto le mie competenze arrivano fino a quelle stagioni. In seguito magari me lo racconterete voi, oppure ne abbiamo parlato con questo Nikola Jokic, non con lui direttamente ma con appassionate e appassionati che lo hanno definito attualmente il giocatore al mondo più forte. Ma purtroppo, come vi ho detto, all'interno del Mood Groove ci sono altri tipi di approfondimento, e questi percorsi per la franchigia di Denver ne daremo spazio dalla prossima puntata. Vi ho dato qualche nozione dal punto di vista geopolitico per la città di Denver, magari la prossima puntata lo avremo anche dal punto di vista di incontro tra ABA ed NBA. Primo anello che vince, intanto sapete che negli Stati Uniti d'America, con la caratteristica dei draft, non vincono sempre Milan, Inter, Juventus, ma c'è un'alternanza costante, cioè l'anello lo può vincere anche la Salernitana, dipende se è mossa bene ai draft, ok, vincerà l'anello. Una delle poche caratteristiche degli Stati Uniti d'America che apprezzo. Con tutto il rispetto per la Salernitana, ci mancherebbe altro. E con questo io mi congedo dando appuntamento al prossimo Move to Groove per la settimana di martedì prossimo, ormai l'ultima del mese di giugno. Quindi un buon ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ringrazio Simone Mottola per Gardens, ringrazio per la co-conduzione Paolo Onofri, ascoltatrici e ascoltatori, mattiniere e mattinieri, per l'attenzione di questo martedì 20 giugno 2023. Vigilia d'estate, e do appuntamento al Voltiamo Pagina, la rubrica di domani, il mercoledì, di Radio Città Fujiko. A breve di Pel Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, rassegna stampa e, mi raccomando, il vinile della settimana, curato e condotto dal nostro Andrea Gozza, dalle 10.30 alle 12.30. Quindi i vinili saranno due, ascoltati per intero. Buon martedì, buon ascolto, un caloroso abbraccio dal vostro William Piana, un buon ascolto su Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani puntuali alle 7, Breakfast Club, la vostra prima colazione in diretta, ciao!